Avevo 17 anni quando un giorno decisi di andare da Don Stefano in parrocchia per parlargli. Per quale motivo? Perché non stavo bene interiormente, avevo una profonda angoscia, mi sentivo anche un po' in colpa perché stavo attraversando una crisi di fede. Direte, perché uno deve sentirsi in colpa se attraversa una crisi di fede? Tenete conto che sono cresciuto in una splendida famiglia molto credente. I nostri genitori ci hanno sempre dato una profondissima testimonianza di fede. E io sono cresciuto in questo ambiente e la fede per me è sempre stato qualcosa di naturale, di scontato, che non avevo mai messo in discussione prima. Un po' come l'aria in cui respiriamo, in cui siamo immersi e non ci viene neanche in mente di pensare che non possa esserci l'aria. Ero in quarta superiore, direi, quando abbiamo iniziato a studiare certi autori che mi piacevano molto, come Foscolo con i suoi Sepolcri e soprattutto Giacomo Leopardi, L'infinito, le operette morali, Il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, testi molto profondi, molto intensi, che mi attiravano, che mi piacevano proprio. Foscolo e Leopardi sono poeti non credenti, ma io leggevo questi testi e mi dicevo, sono testi belli, profondi, toccanti, queste persone che li hanno scritto devono essere intelligenti, sensibili, profonde. E se avessero ragione loro? Iniziò così dentro di me un dialogo interiore molto serrato e profondo che mi mise proprio in crisi e mi fece anche sentire in colpa. E così avevo il desiderio di parlarne con qualcuno e allora mi dissi, vado in parrocchia e ne parlo un po' con Don Stefano. Iniziai a parlare e gli dissi che mi sentivo molto in colpa per questi pensieri che stavo avendo. Ancora non gli dissi quello che stavo pensando. Ok, adesso lasciate stare per un attimo il motivo per cui io ero in crisi in quel momento. Provate a pensare a qualcosa di cui voi non avete mai parlato a nessuno, qualcosa che vi mette in imbarazzo, qualcosa di cui vi vergognate, un pensiero, un'azione, un desiderio, qualcosa che vi turba interiormente, qualcosa di cui non avete mai parlato con nessuno e che vi metterebbe in difficoltà al parlarne con qualcuno. Ok, ci state pensando? Se necessario fermate anche un attimo il video per mettere bene a fuoco questa cosa. Ok, ci avete pensato? Come vi dicevo, dissi a Don Stefano che avevo dei pensieri che mi turbavano e che volevo raccontargli, finalmente volevo un po' sfogarmi. Lui mi interruppe e mi disse una cosa che mi colpì profondamente, mi disse così: Giovanni, potresti anche dirmi che hai avuto il pensiero di voler uccidere tua madre. E non mi scandalizzerebbe, perché comunque è una cosa che fa parte di te. Quella frase mi colpì profondamente, non la dimenticherò mai, anche se in un certo senso non capivo bene che cosa intendesse. Di sicuro però sentivo che quella frase mi aveva dato una profonda serenità. E così gli raccontai con grande serenità tutto quello che stavo pensando. A distanza di anni mi sembra di avere adesso la possibilità di comprendere più con chiarezza quello che mi diceva e il motivo per cui mi rasserenò così tanto. Don Stefano credo che intendesse comunicarmi un qualcosa di questo tipo, che soltanto quando riesco a sentirmi totalmente, pienamente, incondizionatamente accettato dall'altro, allora posso esprimermi con libertà, con serenità e nello stesso tempo, sentendomi accettato così come sono, ho la possibilità di accettarmi anch'io a mia volta e di uscire da quella gabbia che mi stava imprigionando, da quel pensiero che magari mi toglie serenità. E così facendo riesco anche in qualche modo ad evolvere come persona. E tutto questo parte proprio dal sentirmi amato ed accettato come sono. Com'è finito poi quel dialogo e quella crisi di fede, credo che non ci sia bisogno di spiegarlo. Ciò che oggi mi faceva piacere raccontarvi è proprio questa esperienza dell'essermi sentito totalmente, incondizionatamente amato ed accettato così com'ero. Poche altre volte l'ho sentito con quella chiarezza così profonda, così totale, e sicuramente Molte altre volte l'ho sentito nel sentirmi amato totalmente e incondizionatamente da Dio. Ecco perché credo che il sorriso di Dio su di noi sia una delle cose più belle e più profonde che possiamo sperimentare, sia una delle esperienze più belle che possiamo vivere nella nostra vita. E credo anche che noi dobbiamo farci portatori di questo sorriso, portandolo agli altri, facendo sentire gli altri allo stesso modo accettati e amati come sono. Ti sei mai sentito accettato in questo modo? Che cosa hai provato in quel momento? E riesci a tua volta ad amare e accettare gli altri in questo modo totale e incondizionato? Se anche tu credi nel valore profondo dell'accettazione, ti restano soltanto 4 cose da fare. Metti un mi piace, e questo ti ci vuole proprio un attimo. E poi se vuoi lascia un commento, questo può essere un po' più difficile. Prova a scrivere nei commenti un momento in cui ti sei sentito accettato così profondamente. E soprattutto condividi questo video con l'universo mondo, chissà che qualche raggio del sorriso di Dio non possa raggiungere qualche altra persona che conosci. E infine, non ricordo se te l'ho già detto qualche volta, iscriviti al canale e attiva la simpatica e instancabile campanella che ti porterà una notifica quando ogni lunedì mattina uscirà un nuovo video.